Vendo tutto di Matteo Caccia. Il telefono cellulare, la TV, le vacanze già prenotate e le guide per andarci, i quadri appesi alle pareti, i vecchi dizionari, gli oggetti regalati e quelli comprati, quelli ancora da mettere in vendita e quelli già all'asta. Tutto, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo una videocamera digitale. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:07, io sono Matteo Caccia e ho buone notizie. Perché con questo weekend, mi pare con domenica o sabato, adesso devo controllare meglio, sono andate in porto le aste dei primi 5 oggetti. Vi ricordate i primi 5 oggetti che ho messo all'asta nella primissima settimana? Erano la bottiglia, la chitarra, la tenda, la stilografica e l'iPod. Bene, gli oggetti sono stati venduti e vi faccio anche, guarda, faccio anche 4 calcoli. Perché la bottiglia alla fine è andata via per 7,50 euro, la chitarra per 45,50 euro, è andata a Guglielmo di Cuneo, mentre la bottiglia a Vincenzo di Taranto. Poi la tenda a 30,50 euro è andata a Giuseppe. Tra l'altro Giuseppe mi ha scritto un messaggio molto divertente. Giuseppe non era un ascoltatore, ha semplicemente trovato la tenda. Eccolo qua: ciao Matteo, io ascolto solo Radio DJ, ma ti posso assicurare che oggi alle 16 sarò un tuo ascoltatore, anche perché voglio conoscere la storia del mio oggetto, la mia tenda. Purtroppo Giuseppe la tenda l'ho raccontata il terzo giorno, quindi era mercoledì 20 gennaio. Poi dicevamo, la penna stilografica è stata venduta ad Emanuele di Lecco per 151 euro e 10 centesimi, e l'iPod è scaduto poco tempo fa, credo un'oretta fa o un'oretta e mezza fa, per 122 euro e 99. Questo vuol dire che, sommando i primi oggetti, quelli della prima settimana, sono entrati nel fondo dei desideri 357 euro e 59 centesimi, e questo, detto ancora meglio, vuol dire che io posso finalmente cominciare a pensare a realizzare tutti i miei desideri. Nella lista non è ai primi posti, ma io ci tengo a farlo sin da subito, sin dall'inizio, perché è vicino, lo posso fare magari un sabato o una domenica mentre sono in onda nei prossimi fine settimana. Sto parlando del lancio con il paracadute, e per farmi raccontare che cos'è, quanto costa, di cosa si tratta, c'è al telefono con me Anna dello Skydive di Verona. Pronto Anna? Buongiorno Matteo. Ciao, buongiorno e benvenuta a Vendo Tutto. Allora, mi piace che oggi si parli di questa esperienza straordinaria che è il lancio. Anche a me, sapessi a me, anche se però voglio capire un paio di cose. Sarebbe piaciuto tanto anche a me, però purtroppo è caduta la linea. Quindi risentiamo Anna al telefono. Probabilmente lei è l'istruttrice con cui io farò il lancio col paracadute. Però prima di risentire Anna, io vorrei anche chiedere a tutti gli ascoltatori in onda, visto che lei ovviamente adesso me ne parlerà come di una passeggiata, no? Chiaramente un'istruttrice dice come bere un bicchiere d'acqua. Però in realtà non è proprio così. E quindi vorrei sapere se c'è qualcuno in ascolto che si è lanciato mai col paracadute in vita sua, anche una volta sola, o 10, 100, ma anche 2 volte nella sua vita, mi chiama e mi conforta. 800 24 00 24, perché di lancio di paracadute stiamo parlando e ho paura che non sia proprio tutto così semplice come ce lo racconterà Anna. Io direi che se Anna la possiamo sentire adesso, altrimenti noi la sentiamo dopo. Quindi facciamo così. Allora, oggi parto con la videocamera digitale. Il racconto della videocamera sta per partire. Se volete vederla, come al solito, radio24.it. Se volete sentire la sua storia, invece, eccola qua. La videocamera digitale. Videocamera digitale Canon modello DC20. Registrazione diretta su DVD, design sottile, facile da maneggiare. Colore grigio argentato, sensore con risoluzione da 2.2 megapixel, funzionalità fotografica avanzata con flash incorporato. Modalità 16 noni, zoom ottico 10x, stabilizzatore elettronico delle immagini, mini luce video, USB 2.0 high speed. Usata 3 volte, pari al nuovo, ottima per chi vuole fare video amatoriali o sogna di diventare un regista. Valore commerciale 200 euro, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Per qualche strana ragione abbiamo sempre bisogno di fissare e registrare i momenti della nostra vita. Voci, facce, luoghi. Ci piace pensare che quel momento lì, qualunque esso sia, anche se è passato, noi in qualche modo possiamo rivederlo, possiamo riascoltarlo. Spesso capita che bloccare quei momenti sia quasi più importante che non rivederli o riascoltarli. Ci dà conforto sapere che su un CD, su una cassetta o nel computer, quelle immagini, quei suoni, ci sono. E che se vogliamo, possiamo rivederla. Però poi, quante volte capita realmente che ci mettiamo lì e li guardiamo davvero tutti? A me è capitato qualche giorno fa, mentre ripulivo il mio computer per prepararlo alla vendita. Sì, ovviamente venderò anche quello. C'era una quantità di foto e di video girati anni prima che non solo non mi ricordavo di avere, ma che addirittura non capivo perché li avessi girati. Tipo, mio papà e mia mamma al tavolo di un ristorante. Non saprei dire dove e non saprei dire quando. Giulia che si copre il viso perché non vuole farsi riprendere. Una spiaggia piena di gente. Giulia che si nasconde perché non vuole farsi riprendere. Una partita di calcetto. Giulia che si lamenta perché non vuole farsi riprendere. Forse non l'avete capito, ma lei non piaceva farsi riprendere. Però, d'altra parte, cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto amarla di meno per questo. Comunque, mentre guardavo questi video mi domandavo se in quel momento lì, cioè mentre li registravo, pensavo davvero che li avrei mai rivisti. Cioè, se immaginavo che mi sarebbero serviti a qualcosa, anche solo a ricordare che mia nonna bagnava i fiori o che un tempo giocavo a calcetto. Perché in fondo, voglio dire, a meno che tu non sei un regista, no? Che ha in mente perché sta girando quella scena e dove la userà nel suo film. In realtà il 90% delle registrazioni che facciamo nascono da un'unica convinzione, quella che in un futuro piuttosto remoto guarderemo quelle immagini. Le guarderemo con la malinconia e l'orgoglio di chi, quelle cose le faceva una volta. Oltre alla malinconia per il tempo che fu, c'è un'altra sensazione con cui si assiste alla visione di alcuni video amatoriali. Ed è quella sensazione che si trova a metà strada tra la semplice curiosità e il voyeurismo. È quella voglia di vedere cosa succede che ci prende quando intravediamo qualcosa dietro le tende di una finestra. È il motivo per cui hanno tanto successo i film girati con delle videocamere portatili, tipo REC o tipo The Blair Witch Project. Have you ever heard of the Blair Witch? What's your take on the Blair Witch at this point? Do you think she exists? Hello? Hello? Tutti noi abbiamo un parente o un amico fissati con i video. Tutti. Quelli che in qualsiasi occasione che loro considerano memorabile arrivano con una videocamera e cominciano a riprendere tutto e tutti. Sono quelli che ti puntano contro l'obiettivo e ti dicono «Dai, dai, di qualcosa!». Ecco, in quella situazione i casi sono due. O cerchi di dire qualcosa di non troppo stupido in modo che lui è contento e passa a qualcun altro, oppure inizi con la scenetta che non puoi farti riprendere per piacere, che non basta, dai, basta, non voglio, non so cosa dire, vengo malissimo in video. Nella mia famiglia, la persona con la fissazione per le riprese è sempre stato mio zio Pietro. Lo zio Pietro non è sposato, non ha figli, quindi ha sempre usato me e mia sorella come soggetti preferiti delle sue riprese. Avete presente le serate diapositive? Ecco, a casa mia c'erano le serate filmini, solo che non raccontavano di viaggi in luoghi esotici, no. Erano semplicemente compleanno Matteo 84, Natale 96, Cresima Tiziana o anche solo grigliata Ferragosto 99. Dei video al cui confronto The Blair Witch Project era roba da novizie. Mio zio conserva ancora in soffitta e ben catalogate, anno per anno, qualcosa come 1500 videocassette, con tutti i filmini familiari. Nel tempo sono cambiati i supporti, dalle cassette del video 8 al VHS fino alle mini DV ai DVD. Ma non è cambiata la sua voglia di bloccare il tempo. Ecco, è a lui che devo per un periodo della mia vita la convinzione di volere fare il regista. Ed è a lui che devo questa videocamera, che mi ha regalato 3 anni fa. La storia della mia videocamera, quella che vendo oggi, ha a che fare con la consapevolezza dei propri limiti e i sogni infranti. Nel mio caso, i sogni erano quelli in cui immaginavo di diventare un regista di successo. Perché? Non so se è capitato pure a voi, però a partire dai 6 anni fino ad oggi, le mie convinzioni riguardo al mestiere che avrei voluto fare da grande saranno cambiate almeno un centinaio di volte. Tipo ero in vacanza al mare e volevo fare il pescatore. Poi andavo in montagna e diventavo un pastore. Ascoltavo Battisti e volevo fare il cantante. Vedevo L'attimo fuggente e volevo fare il professore. Ecco, l'unica cosa che non ho mai voluto fare è stato l'astronauta. Non so perché, mi sembrava troppo facile. Poi un giorno ho visto un film e ho deciso che da grande sarei stato un regista di cinema. La prima volta che ho visto 2001 Odissea nello spazio non ci ho capito niente. La seconda volta mi è parso di capirci qualcosa, poi l'ho vista una terza e quella ha incrinato completamente le poche certezze che la seconda aveva creato. Ci avevo capito talmente poco che pensai che fare regista doveva essere strepitoso. A quell'epoca avevo circa 15 anni. Però crescendo la cosa di fare regista non mi è passata. E mi è tornata ancora più vivida quando nel Natale del 2006 mio zio mi regalò questa videocamera digitale. È un oggetto bellissimo. Registra su dei piccoli DVD. Ha una forma bombata e al tatto è quasi sensuale. Gran parte dei video che ho girato risalgono a quel Natale del 2006. E non tanto perché ci fosse qualcosa di interessante, no, è solo che più di una volta dimenticai di fermare la registrazione, oppure la feci partire accidentalmente. E quindi ci sono delle lunghe sequenze nere con un sonoro incomprensibile. Però la prima vera carta per dimostrare le mie capacità di regia me la giocai qualche mese dopo, per il matrimonio del mio amico Christian. Allora, intendiamoci, io ci avevo già 30 anni e facevo pure altro nella vita, lavoravo in radio, che era anche un lavoro che mi piaceva, però sapete, no? Quanto sono dure a morire le passioni infantili, quelle che ti si annidano in fondo da qualche parte e che alla prima occasione vengono fuori. Ecco, è successo esattamente così. Allora, quando seppi che Christian si stava per sposare, lo chiamai e gli dissi di non preoccuparsi delle riprese. Ci avrei pensato io. Gli dissi che avevo una videocamera semiprofessionale, che il giorno più importante della sua vita sarebbe diventato un film, ma un film vero, mica i filmini da matrimoni, no, un lungometraggio con una storia, dei personaggi, uno stile di ripresa e una colonna sonora ad hoc. Lui ne fu entusiasta, e io ovviamente pure. Mi sembrava una specie di riscatto. Cioè, non pensavo che sarei andato al Festival di Cannes, però mi aspettavo, avete presente, quelle frasi dei parenti che non hanno alcun valore critico, però ti aiutano tanto, tipo «Mamma Matteo, come sei bravo, ma dovresti farlo di mestiere?» oppure «Guarda, mi sembra molto meglio delle cose che si vedono in televisione». Il film fu un disastro. C'erano lunghi piani sequenza sui nonni dello sposo che dormono in chiesa. E poi miriadi di dettagli. Dettagli di mani, orecchini, pasticcini, antipasti, il tutto con una musica malinconica sotto che lo faceva sembrare un dramma più che un giorno di festa. Io ho provato a spiegare che quello era semplicemente un taglio registico, però non è servito a nulla. Qualche giorno dopo averglielo consegnato, Christian è venuto a casa mia e con grande serenità mi ha detto che era proprio brutto. Cioè, quello che io credevo fossero delle riprese artistiche, in realtà erano semplicemente delle vaccate, fatte da uno che non è capace, ma che crede di esserlo. Ammetto, è stato doloroso, Però è servito. E credo che dovrebbero esserci in giro molti più Christian, che in nome dell'amicizia dicono ai loro amici: guarda, non sei capace, lascia stare. Forse ci sarebbero meno persone frustrate e più spazio per le belle cose. Insomma, nonostante tutto, nonostante 2001 odissea nello spazio e i sogni infranti, questa videocamera è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 200 euro. La base d'asta, qui, sono 99 centesimi. Se però vi siete lanciati col paracadute e volete raccontarmelo e confortarmi, 80024 0024 1622 Radio 24, vendo tutto al 349 238 6666, Massimo mi scrive. Io lo terrei per ultimo come desiderio il paracadute, metti che non si apre e ci tocca finire subito col programma. È per questo che chiedo ad Anna dello Skydive di Verona di confortarmi immediatamente. Pronto Anna? Sì, infatti ti stavo dicendo, no, il paracadute si apre sempre. Si apre sempre, perfetto. Quindi Anna, sì, tu sei un'istruttrice di paracadute, si dice istruttrice di paracadute? Beh, sì, io ho il mio attivo 4500 lanci e sono da 30 anni alla scuola di Verona, che è una delle scuole, tra l'altro, che ha 45 anni di esperienza alle spalle. Però io avrei bisogno, Anna, di persone. Anna, avrei bisogno che tu mi dicessi subito che tipo attraversare la strada a Milano è molto più pericoloso, così... Ma soprattutto se lo fai magari senza guardare, ecco. Spero che non sia così pericoloso neanche attraversare la strada, ma certamente fare il lancio tandem è una cosa di una grande semplicità ed è soprattutto una possibilità di provare un'emozione straordinaria. Ecco, perché il lancio tandem è, cioè, io non mi butto da solo, giusto? C'è una persona come te. Non ti butti da solo, tu arrivi da noi, vieni accolto, sì. Ti viene fatta una preparazione di 10 minuti, un quarto d'ora a terra, è una cosa piuttosto semplice. Vieni agganciato ad un istruttore, sali in aereo in 14-15 15 minuti arrivi con un aereo che porta su 10 persone a 4.000 metri di quota, puoi avere con te, se lo scegli, un operatore video paracadutista che ti segue e ti riprende. E quello per forza, anche perché sto vendendo oggi la videocamera e quindi voglio avere tutto documentato. Ma bisogna per forza. Quindi ti dicevo, esci con l'istruttore e fai un minuto di caduta libera a paracadute chiuso, perciò a 180-200 km l'ora. E dire un minuto sembra poco, ma se lo guardi, insomma, sulla lancetta del contasecondi, vedi che è veramente un tempo importante. Ma Anna, invece scusami, hai detto un minuto di caduta libera e poi da quando il paracadute si apre quanto c'è di discesa? Sì, sono 4-5 minuti di volo a paracadute aperto ed è fantastico. Un'esperienza, un regalo secondo me che chi se lo lo riceve ha fatto qualcosa di veramente... È esattamente quello che voglio fare. Anna, senti, io purtroppo ti devo salutare dandoti appuntamento direttamente da voi a questo punto, tra qualche settimana. L'ultima cosa che volevo chiederti però è questa: c'è mai nessuno che si è tirato indietro all'ultimo momento? Forse una persona su qualche migliaio. Benissimo, benissimo. Anna, grazie mille, ci sentiamo e ci vediamo là. Ciao. Tutto documentato. Ciao, buona giornata. Grazie. Bene, avete sentito ovviamente l'istruttrice, era serenissima, e quindi vorrei sentire qualcuno che l'ha fatto realmente. Ha chiamato l'800240024 e andiamo subito a Roma da Federico. Pronto, Federico? Ciao. Ciao, come stai? Bene, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché è carica di poesia ed è splendida. Grazie Federico. Invece tu, già il fatto che sei qui a parlarmi vuol dire che sei sopravvissuto. Ne ho fatti pochi, 17 a dire il vero. Il primo ovviamente in tandem, si fa sempre così per prendere confidenza. Quello che ti consiglio è questa cosa, è di farne più di uno, perché al primo lancio non capirai nulla. È talmente forte l'emozione che scendi a terra e dici: ma come, tutto qui? Poi ti riguardi in video e dici: no, ero io, ma quanto dura sto lancio? Ma davvero ancora siamo in aria? Continua così. Ma quindi Federico, scusami, quando sei in aria cosa fai? Tipo gridi, ridi, sei preso da attacchi di qualche tipo? Beh, questo dipende dalla persona. C'è addirittura uno che ho conosciuto, cioè una volta è successo al campo di volo che uno si è svenuto nella caduta. Perfetto, ecco, guarda, ti ringrazio Federico, con questa io ti saluto e spero di avere altre testimonianze non proprio simili alle tue. Andiamo a provincia di Varese. Michele, pronto? Sì, ciao, buongiorno. Ciao Michele, buongiorno. Tu hai fatto dei lanci anche tu? Sì, però tipo militare, per cui il lancio è vincolato. E in teoria il paracadute si dovrebbe aprire sempre. Cosa vuol dire che è vincolato il lancio, scusami? Il lancio è vincolato perché tu all'interno o dell'aereo o dell'elicottero, a seconda del lancio che fai, hai attaccato la fune di vincolo statico del velivolo. Cioè, quindi appena tu ti sganci da questa fune si apre il paracadute, giusto? Sì, è misurata in modo che appena fuori dal velivolo si apre la sacca e poi esce la velatura. Michele, quanti lanci hai fatto tu? Io una cinquantina. Senti, mi sembra di capire che però avendolo fatto da militare, diciamo, tu l'opzione no, non ce la faccio, rinuncio, non ce l'avevi proprio. Sì, dovevo buttare giù i paracadutisti, perché sono stato anche istruttore. Beh, Michele, quindi che si fermassero sulla porta. È una cosa che mi consigli di fare, quindi? Sì, sì, è un'esperienza esaltante. Ti ringrazio, Michele. Buona giornata. Ciao. A te complimenti. Grazie per la mille. Trasmissione. Grazie, ciao. Ciao Michele. Ciao, io ringrazio Michele. E visto che oggi vi ho parlato di uno dei desideri che si trova nella lista, ecco qua la lista completa. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Sono le 16:28 minuti, io ringrazio Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Franco Piantanida e Paolo Corleoni. Domani è il turno di un altro oggetto della mia vita, una cosa piccola, però essenziale, senza la quale non mi sarei mai svegliato tutti i giorni. Domani vendo la mia radiosveglia. Quella di oggi invece era la storia della mia videocamera digitale. Per vederla e comprarla, radio24.it. Dai messaggi che mi mandate, intanto ho cominciato a capire che state cominciando anche voi a liberarvi delle vostre cose. E ne sono felice, perché come ormai sapete, anche una videocamera è semplicemente una videocamera. Love, love, love.